reportage. Immigrazione. Quali i prossimi passi dell'Europa? Di Sergio Nava. Buongiorno da Bruxelles, mi trovo in questo momento nei pressi di Rond-Point-Schuman, il cuore nevralgico politico delle istituzioni europee, e fa un certo effetto sicuramente ascoltare musica country in questo angolo della città, però quello che vi stiamo raccontando è una manifestazione in occasione del vertice europeo, manifestazione di protesta contro il trattato di libero commercio transatlantico, il TTIP. Ormai ogni vertice europeo è diventato un po' catalizzatore delle varie proteste, a volte sono gli agricoltori europei, in questo caso invece è tutto quell'ombrello di organizzazioni che protesta, manifesta contro il trattato. Ci occuperemo però in questo reportage da Bruxelles di immigrazione, immigrazione che è stato il tema cardine del vertice tenutosi nella capitale belga ed europea questa settimana. Non si è parlato solo di immigrazione, vi racconteremo anche gli altri temi in questo reportage. Prima però un piccolo flashback. Papier pour mes enfants, pour nous, pour travailler. Anche Bruxelles ha avuto la sua piccola Lesbo quest'estate. Quelle che ascoltate sono le voci di alcune delle centinaia di profughi siriani, iracheni, afghani che nel mese di settembre hanno piantato le tende al Parco Maximilian nella zona nord della città, a pochi chilometri dal cuore delle istituzioni europee e sotto le finestre della city amministrativa e finanziaria della capitale belga. Chiedevano semplicemente asilo, ma un pasticcio tra governo e amministrazione cittadina li ha tenuti in un limbo protrattosi per settimane. Torniamo ora al vertice, conclusosi con un accordo nei fatti intermedio. Sì, di principio al piano di cooperazione tra Europa e Turchia sui rifugiati, anche se i dettagli vanno ora negoziati. Sì, anche a un rafforzamento del personale di guardie di frontiera negli hotspots e a maggiori poteri per Frontex sui rimpatri. Nessuna intesa invece per rendere permanente lo schema di ricollocazione dei profughi. Prossimo appuntamento il summit euroafricano della Valletta a novembre. Il premier Matteo Renzi. La posizione italiana è la posizione di questi sei mesi, è stata la posizione più coerente. Dal primo giorno abbiamo detto che occorreva un approccio globale, un approccio complessivo alle questioni dell'immigrazione, e oggi possiamo ben dire che questo risultato è un risultato condiviso, al di là poi di alcuni singoli aspetti anche della discussione del documento finale. E per approfondire la questione immigrazione abbiamo intervistato Lorenzo Consoli, corrispondente dell'agenzia di stampa Asca News a Bruxelles, nonché memoria storica delle politiche europee, qui lavora da 25 anni. Consoli sottolinea il ruolo cruciale giocato dalla Commissione nella svolta sulle politiche migratorie. È più che un cambiamento di ruolo, è un ritorno al futuro, diciamo, perché è un ritorno a quello che la Commissione dovrebbe essere effettivamente e che è stata soprattutto durante gli anni di Jacques Delors. Juncker, a differenza di Barroso, cosa fa sull'immigrazione? Quale atteggiamento prende? L'atteggiamento di Barroso era un atteggiamento di forte subordinazione rispetto all'iniziativa degli Stati e era un po' l'atteggiamento da una parte del segretariato generale degli Stati che lui interpretava come ruolo della Commissione, cioè noi facciamo quello che possiamo fare, ma se abbiamo soprattutto i grandi Stati contro o non convinti è inutile anche che ci muoviamo. L'interpretazione del ruolo della Commissione di Juncker, che è molto simile se non identico a quello di Jacques Delors, è tutt'altro. La Commissione applica il metodo comunitario, la Commissione deve iniziare la legislazione, deve proporre, deve spingere, dare propulsione proprio alle politiche europee e spingere sull'integrazione, quindi continuare a integrare i paesi. E nella pratica lo vediamo quando la Commissione impone di fatto il ricollocamento dei profughi. Sì, è lì la cosa interessante, perché in realtà questo potere che la Commissione ha e aveva già dai tempi del Trattato di Lisbona è un potere appunto che Barroso aveva dimenticato. La politica di immigrazione comune, è una politica comune. L'unico campo in cui i paesi membri hanno un diritto esclusivo, hanno un potere esclusivo, è decidere quanti immigrati economici possono essere accettati sul proprio territorio ogni anno. La svolta l'abbiamo a fine settembre, quando appunto su proposta della Commissione per la prima volta a maggioranza i paesi dicono si ricollocano altri 120.000 profughi, e quella è la svolta. Sì, perché mentre nella proposta precedente che aveva fatto la Commissione Juncker di ricollocare 40.000 profughi c'era stato un accordo unanime da parte degli Stati membri per marginalizzare la Commissione, dicendo alla Commissione voi ci avete proposto questa cosa di 40.000 profughi e volete che sia obbligatoria. Noi la facciamo volontaria, vedrete che ci arriveremo. E poi non ci sono arrivati a volontariamente di ridistribuire 40.000 profughi, sono arrivati a malapena a 32.000. Quando Juncker, la commissione Juncker, hanno tenuto ferma la barra sulla rotta, dicendo no, noi persistiamo, noi proponiamo ancora 120.000 questa volta profughi da redistribuire obbligatoriamente nei paesi, negli altri paesi membri che non siano l'Italia e la Grecia dove arrivano. A quel punto è cambiato tutto, perché nel frattempo era cominciata l'esplosione della rotta balcanica e la Germania all'inizio di settembre ha preso le posizioni che ha preso, favorevole appunto all'accoglimento dei rifugiati, e lì c'è stato lo scontro. Quanto cammino resta da fare per avere una vera politica comune di immigrazione, rivedere anche Dublino se vogliamo? Siamo in realtà molto indietro ancora. Sì, ma è vero anche che basta guardare dove eravamo a luglio e dove siamo oggi. C'è stata un'enorme evoluzione. Mentre a luglio a parlare di revisione di Dublino erano ancora solo l'Italia, la Grecia, la Commissione cominciava già a farlo, ma gli altri paesi non ne parlavano. Oggi è praticamente mainstream, è praticamente la maggioranza che chiede che ammette che bisogna cambiare Dublino. Più defilata, ma neppure troppo, considerata la contemporanea presentazione della legge di stabilità italiana, la questione della prossima manovra finanziaria. Al di là del margine di flessibilità legato alle questioni migratorie su cui l'Italia punta, ma sul quale la Commissione non si sbilancia, a tenere banco a Bruxelles è stata la vicenda tassazione. Il vicepresidente della Commissione, il Falco Dombrovskis, non le manda a dire a Roma in conferenza stampa. Per quel che riguarda le tasse, solitamente il Consiglio della Commissione europea, per favorire la crescita economica, è quello di alleggerire il carico fiscale sul lavoro, spostandolo su altre voci come i consumi, la proprietà e i capitali. Quella dell'Italia non è un'azione che va in questa direzione. Per questo è necessaria una discussione con le autorità italiane per capire le ragioni di questa politica fiscale e delle sue possibili implicazioni. Mentre il presidente della Commissione europea Juncker al microfono di Radio 24 dribbla l'argomento. I'm not in the Italian budget, no. Oggi non mi occupo del budget italiano, dice. Ma quali sono le prossime tappe della legge di stabilità a Bruxelles ora? Lo abbiamo chiesto a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore. La Commissione europea ha ricevuto da due giorni a questo punto la legge di stabilità e ha due settimane di tempo per respingerla o meno. In altre parole, le regole europee consentono alla Commissione, in questo frangente, di rinviare la finanziaria per l'anno prossimo nel caso in cui il testo violi in modo esplicito il patto di stabilità e di crescita. Ma sono casi eccezionali che non sono mai avvenuti da quando queste regole sono in vigore. Quindi si deve presumere che la Commissione non userà questa misura nei confronti dell'Italia, nonostante i dubbi che sono stati espressi in queste settimane da parte di Bruxelles. E quindi la Commissione ha in realtà un mese per dare la propria opinione e le proprie raccomandazioni sulla finanziaria 2016. In altre parole, la Commissione entro il 15 di novembre dirà cosa pensa di questa finanziaria. L'obiettivo è quello di riuscire ad intervenire sull'iter di approvazione della finanziaria durante il passaggio in Parlamento. Il governo Renzi ha puntato molto in questa manovra sui margini concessi all'Europa, ce ne sono di vario tipo, non da ultimo anche quello sui migranti. Quanto vedi possibile effettivamente per l'Italia poter sforare un po' per poter tagliare le tasse e diciamo, mettere denaro in circolazione nell'economia? L'Italia ha chiesto attraverso la propria legge finanziaria e prima ancora attraverso il documento economico e finanziario di poter avere margini di flessibilità sul bilancio 2016 su tre fronti. Il primo fronte è quello delle riforme economiche. Le regole europee prevedono che un paese possa chiedere di aumentare leggermente il proprio deficit pubblico o di modificare la traiettoria di riduzione del disavanzo, mettendo sul tavolo particolari riforme economiche che l'Europa considera positivamente. Primo fattore. Secondo fattore di flessibilità è quello della crescita economica. Il rallentamento dell'economia è un fattore che i governi possono utilizzare per cercare di convincere la Commissione ad avere uno sguardo più magnanimo quando si tratta di giudicare la finanziaria. Il terzo fattore che il governo italiano ha voluto utilizzare è quello dell'emergenza immigrazione. Allora, è un fattore non scritto. In questo caso l'Italia, insieme ad altri due o tre paesi, ha deciso esplicitamente di chiedere magnanimità sulla base della spesa pubblica utilizzata per accogliere i profughi, i rifugiati e gli immigrati. La mia impressione in questo momento è che l'Italia potrà godere di flessibilità sui due primi fronti, ma che le sarà difficile strappare magnanimità per quanto riguarda le uscite determinate dall'immigrazione e dall'emergenza immigrazione. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.